Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Meris, questa sera andiamo a Forlì, in località Villa Selva, per parlare di un progetto per ora unico in Italia, se non altro per gli attori coinvolti e per l'obiettivo: fornire calore di processo alle imprese insediate appunto nell'area di Villa Selva. Calore prodotto grazie al sole per mezzo di un campo di eliostati. Ricordiamo, ecco, che il grosso dei consumi di energia, diciamo la voce più importante, è la produzione di calore, mentre quasi sempre, insomma, si parla di elettricità. E per questo, insomma, questo è un progetto rilevante. Ne parliamo con Alberto Bellini, che intanto è professore all'Università di Bologna, dove insegna trasformazioni dell'energia, ed è anche assessore all'ambiente, all'energia e alla mobilità appunto del comune di Forlì. Buonasera Alberto Bellini. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, ci descriva subito questo campo solare. Si tratta della moderna riedizione degli specchi ustori di Archimede, sono grandi parabole che concentrano la luce del sole, che seguono come dei girasoli. Grandi specchi parabolici. Sono grandi specchi che concentrano nel fuoco la luce del sole, nel fuoco circola un olio diatermico che viene riscaldato a 350 gradi e poi pompato verso una rete di teleriscaldamento dove scambia calore e lo rende disponibile. A chi lo rende disponibile? A chi è collegato alla rete di teleriscaldamento. Nella nostra città c'è una rete di teleriscaldamento che serve le utenze produttive, quindi le aziende del comparto di Villa Selva che lei citava, che quindi possono beneficiare di questa energia termica, calore che viene fornito dal sole. Ecco, tipicamente a tutti viene in mente proprio il progetto Archimede, no? Quello che serve per produrre con un sistema sempre di eliostati, cioè di specchi curvi che concentrano la luce del sole per produrre energia elettrica. Voi avete detto: noi abbiamo bisogno di calore, che ce lo fa fare di mettere in mezzo tutto l'ambaradan che serve per produrre energia elettrica. Questo è un primo elemento, insomma, anche di novità, anche se una novità un po' al contrario per certi versi. Sì, ci sono due ragioni in realtà. Una tecnica, che per arrivare a produrre energia elettrica bisogna avere più di 400 gradi e poi bisogna avere, come lei diceva, macchine molto complesse. Si può produrre anche con temperature più basse, ma comincia a diventare poco efficiente. Beh, diciamo, no? Molto poco efficiente, certo. Naturalmente. Il secondo motivo, come ricordava lei, dal punto di vista ambientale, l'energia termica copre almeno il 50% dei consumi totali e ad oggi è per più di due terzi prodotta da combustibili fossili. Quindi intervenire sul termico è la vera sfida dal punto di vista ambientale. Che tipo di industrie faranno uso di questo calore? Noi abbiamo un comparto produttivo abbastanza vario, per fortuna, dove ci sono aziende manifatturiere, aziende di vari generi. L'utente principale è un'azienda manifatturiera che produce anodizzazione per metalli, per l'impresa automobilistica. Quindi fanno dei bagni caldi, diciamo, no? E hanno bisogno di molto calore. Ma diciamo che ancor più nell'industria, diciamo, una grande richiesta è quella di energia termica, quasi sempre. Senta, questo progetto, da un lato è unico perché vede il comune come principale attore, no? E anche sponsor di questo campo di eliostati. Quindi le chiedo: quanto è importante che siano gli enti pubblici, gli enti locali in qualche modo a dedicarsi a questo tipo di progetti? Le chiedo però anche se si può fare dappertutto, ma voi siete riusciti a farlo perché lì ci sono tutto un insieme di condizioni particolarmente favorevoli. Intanto penso sia opportuno ricordare che il progetto è stato fatto in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, che da tempo, con grande lungimiranza, sta finanziando le aree produttive ecologicamente attrezzate e in questo caso cofinanziava delle piattaforme energetiche, quindi ha cofinanziato il 50% dell'impianto. E poi noi avevamo delle conduzioni per fortuna favorevoli, un comparto produttivo dove esisteva già la rete di teleriscaldamento. C'era la domanda, c'era anche, appunto, importantissima la rete di teleriscaldamento, che è un'infrastruttura molto costosa. Esattamente, però credo sia importante che siano gli enti, i comuni o gli enti che facciano queste iniziative, perché si tratta di far capire che la transizione da combustibili fossili ad energie rinnovabili è possibile anche nel termico, e questi progetti pilota credo siano molto molto importanti. Dal punto di vista economico, ecco, sono impegnativi. Noi abbiamo speso oltre 2,5 milioni di euro l'intero investimento, quindi non la metà, l'intero rientra in 11 anni, quindi un privato sicuramente non farebbe questo intervento. Il ruolo degli enti è molto importante. Sì, diciamo che è un tempo troppo lungo per quelle che sono i tempi medi di investimento delle industrie, mentre per un ente pubblico quei tempi sono assolutamente ragionevoli. Pensiamo che sia anche uno strumento di competitività territoriale. Le nostre imprese avranno tra poco energia, tra poco dopo gli 11 anni, energia a basso costo, e già oggi avranno una parziale autosufficienza. Ecco, quanta energia produce questo campo? E a proposito, se ci dice anche quanto è grande. Ma il colpo d'occhio è impressionante, perché sono 36 paraboloni che occupano circa 20.000 metri quadri. Due campi di calcio, quindi. Esatto. Per dare un'idea, in un anno produce l'energia che potrebbe servire 100 utenze domestiche. Grazie Alberto Bellini. Grazie a lei e un saluto a tutti. È tutto, a domani.